9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, la puntata di oggi, giovedì 7 aprile, è dedicata a un'analisi, alla comprensione, alla spiegazione e all'interpretazione soprattutto di un evento che è avvenuto ieri, le dimissioni di Cesare Geronzi dalla presidenza delle assicurazioni generali, dove Cesare Geronzi era asceso un anno fa dopo alcuni anni di presidenza in Mediobanca. Ricordo che stiamo parlando di una figura chiave e stiamo parlando di aziende chiave, perché Generali non è solo la più grande assicurazione italiana e tra le compagnie finanziarie italiane quella con la maggiore proiezione internazionale, insieme a Unicredit, che è la banca più internazionalizzata del nostro paese, e da sempre un solido pilastro di quel mondo di grandi società cresciute, nate, difese, consolidate e anche arroccate dentro quel perimetro di patti di sindacato costruito nei decenni intorno e dalla Mediobanca di Enrico Cuccia per lunghissimi anni, con giudizi diversi nel tempo su Enrico Cuccia. È prevalso nel tempo un giudizio molto critico sul banchiere che, erede di Raffaele Mattioli, seppe articolare una difesa attraverso i patti di sindacato di gruppi privati nel nostro paese quando i mercati non erano ancora aperti e globalizzati, seppe difendere quei gruppi dalla politica, dall'attacco di una politica molto artigliante, con zanne affilate, e questa fu la storia per un verso, perché per l'altro fu anche una intromissione sistematica naturalmente di Mediobanca, che aveva giudizi precisi e rigorosi sul fatto che spesso grandi capitalisti privati italiani non sapessero poi gestire le aziende il cui controllo proprietario era stato messo al riparo dalla stessa Mediobanca. Ricordo che per tre volte, per limitarci solo alla Fiat, Enrico Cuccia mise in minoranza gli stessi Agnelli nel comitato strategico o negli organi esecutivi di guida della Fiat. Fu all'origine di scelte come quella di Romiti, anch'essa una scelta positiva per certi versi, criticata poi rispetto agli sviluppi dell'auto. E a cascata, intorno a Mediobanca, per i soci privati e per l'evoluzione delle banche dopo la loro privatizzazione, soci di Mediobanca, le ex BIN, le ex banche di interesse pubblico, Mediobanca è naturalmente poi cambiata sotto i colpi inevitabili e giusti dell'apertura dell'Italia ai mercati internazionali, dell'evoluzione dei stessi mercati. Ma in tutto questo, l'epilogo, quando poi a Vincenzo Maranghi fu presentato il conto dalle banche azioniste e dai soci privati, e si posero le basi della nuova Mediobanca, quella ancora oggi guidata da manager operativi come Alberto Nagel, l'amministratore delegato, e Pagliaro, che è forse dei due l'espressione più diretta ancora del vecchio spirito di Mediobanca, venne alla testa di Mediobanca alla presidenza proprio Cesare Geronzi, un banchiere di personalità straordinaria e tipicamente italiana, un banchiere che seppe costruire negli anni la crescita dalla Cassa Risparmio di Roma, il Banco di Santo Spirito e poi su crescendo il Banco di Roma, Capitalia, con crescenti aggregazioni guidate e pilotate da una Banca d'Italia con Antonio Fazio per moltissimi anni molto vicina, quasi diretta espressione, si diceva, della volontà di Cesare Geronzi, la crescita di quel polo bancario romano che ha fatto molto discutere negli anni nel nostro paese, come esempio, forse l'esempio più eclatante di come sono state condotte le aggregazioni bancarie italiane nella parte bassa del sistema. Come nella parte alta abbiamo avuto Unicredit e Banca Intesa attraverso il protagonismo delle fondazioni bancarie, quel azionista del tutto particolare, le cui caratteristiche esistono solo in Italia e che si è dovuto all'inventiva quando si è trovato da parte della politica il modo di privatizzare le banche pubbliche. Allo stesso modo, nella parte bassa del sistema bancario, le aggregazioni sono avvenute, per così dire, con una polizia delle stalle di Augia, cioè delle banche che avevano attivi patrimoniali ed esposizioni molto forti, attivi patrimoniali non molto presentabili ed esposizioni non troppo forti, proprio affidando al polo romano quello di aggregarle, anche se molti sostennero criticamente, io ero tra quelli all'epoca, sostenevano che questa modalità era una modalità un po' singolare, perché spesso si assistiva ad aggregazioni in cui erano più che altro gli attivi patrimoniali della banca predatrice romana che forse avevano bisogno di annegarsi nella liquidità di molte delle banche preda. Ma come fu, come non fu, alla fine poi in realtà Cesare Geronzi si distaccò anche da Fazio negli anni delle critiche a Fazio per le scalate, per tutto quello che è avvenuto, per ciò di cui poi sono ancora oggi aperti i processi. Cesare Geronzi fu lambito e colpito anche personalmente per la responsabilità come presidente nel Polo Romano, presidente non operativo, si è sempre difeso lui in vicende come quella di Cirio e di Parmalat, e gli pendono anche richieste pesanti come 8 anni per bancarotta fraudolenta. Da Mediobanca, dopo il grande colpo, il colpo attraverso il quale risolse lo stesso problema che aveva creato il problema di Capitalia, ne aveva allontanato Matteo Arpe, amministratore delegato troppo ambizioso, ed ecco poi il grande colpo: riuscire poco prima del crollo dei valori sul mercato a convincere la Unicredit di Alessandro Profumo a rilevare il Polo Romano a un valore molto molto molto elevato, e poi il coronamento di tutto questo alla presidenza di Mediobanca. Di lì, un anno fa, l'ascesa in generale. E un'ascesa che si è rivelata problematica, perché la concezione di un presidente dinamico, e che certo non era andato a Trieste solo per le bellezze della città, ha iniziato a fare i conti con una tradizione di rigore e di silenzio di Trieste. La compagnia generale è una compagnia che ha negli anni destato molte critiche, io sono stato tra quelli, perché è una compagnia gestita con tali criteri di prudenza, per così dire, e poco dinamica, che ha tradizionalmente sottoperformato rispetto a tutti gli indici di settore e alle grandi sue concorrenti internazionali, soprattutto nella scena europea, AXA francese, Allianz tedesca, che valgono negli ultimi anni molto più di lei, si sono avvalorate molto più di lei. In cambio della prudenza generale aveva abituato però l'Italia da sempre a essere l'azione del cassettista, quella che non evocava mai polemiche, che era riuscita pure con presidenti delicati storicamente come Cesare Merzagora, Desiata, Gutti, a stare alla larga dalle polemiche del mondo bancario come da quelle della politica nel nostro paese. E con Cesare Geronzi la polemica poi è finita per esplodere. È stato Diego Della Valle negli ultimi mesi azionista pur non investitore in generale, ed espressione di quella stessa lista di Mediobanca che aveva espresso in generale Cesare Geronzi, a iniziare a sollevare i problemi per come Cesare Geronzi gestiva le deleghe che gli erano attribuite da presidente, in primis la comunicazione, di cui roventi polemiche, attacchi in cui Della Valle ha iniziato a identificare negli arzilli vecchietti, come li definì lui, i simboli di una maniera di gestire le società opache, attraverso patti di sindacati troppo chiusi, attraverso manager le cui responsabilità non venivano troppo messe in luce. Ed Diego Della Valle all'inizio sollevato, all'inizio commentato con qualche ironia, alla fine in realtà ci è riuscito, perché in generale è riuscito a coagulare intorno a questa posizione i rappresentanti dei fondi, cioè gli amministratori indipendenti nel consiglio d'amministrazione, e poi piano piano è riuscito a coagulare intorno a sé anche i rappresentanti dei soci privati importanti nel consiglio d'amministrazione di generale, come Pelliccioli, come alla fine anche il prudente e silenzioso Caltagirone, che è asceso nel capitale di generali come quello del MPS in questi anni ed è una delle posizioni di più forte liquidità all'interno del panorama di impresa italiana. E alla fine l'epilogo è venuto dopo una intervista di Vincent Bolloré, il vicepresidente di generali, espressione dei francesi nel capitale. Ricordo a tutti che i francesi sono molto importanti nella governance di Mediobanca, che è divisa in 3 grandi blocchi di soci nel suo patto di sindacato: ci sono i soci bancari, ci sono soci privati italiani non molto forti ma per la quota di capitale che hanno, ma ci sono tanti bei nomi dentro, dallo stesso Della Valle ai Ferrero, ai Trocchetti naturalmente, Ligresti in difficoltà, ma insomma un socio storico, anche le aziende del cavalier Berlusconi, perché Marina è entrata nella governance della nuova Mediobanca, sua figlia. Ma è stata la stessa Mediobanca che alla fine, lunedì sera, lunedì sera, si è ritrovata sulle posizioni della maggioranza del Consiglio costruita da Della Valle insieme ai soci indipendenti, perché di fronte all'intervista polemica del vicepresidente Bolloré francese, che aveva attaccato Pressinotto, il manager operativo di Generali, che già aveva portato alla dimissione di Lorenzo del Vecchio, altro socio privato importante, in polemica contro operazioni condotte negli anni precedenti, di fronte al fatto che un vicepresidente non ha votato il bilancio e attaccava pubblicamente i manager il cui operato era stato condiviso in questi anni, alla fine il giudizio del Consiglio di amministrazione è stato a maggioranza un giudizio convergente verso il fatto che bisognasse cambiare e che il Presidente in qualche maniera era, con la sua posizione personale, interprete di questo eccesso di polemiche che scuotevano improvvisamente, dopo decenni di silenzio, Generali. Di qui il precipizio. La stessa Mediobanca, con Fabrizio Palenzona, che è interprete del nuovo corso della Unicredit post Profumo, mentre Alessandro Profumo era storicamente per uscire da questi intrighi di patti di sindacato, la Mediobanca, RCS, la Generali, ecco che il nuovo corso di Unicredit post Profumo, con Fabrizio Palenzona alla testa delle fondazioni azioniste, dice: no, noi dobbiamo interpretare ancora una volta il nostro ruolo di azionisti di Unicredit, che è importante in Mediobanca, che deve contare nelle controllate di Mediobanca per un ruolo di ancoraggio sistemico, e quindi non è più solo Banca Intesa che si candida alle operazioni di sistema. Siamo arrivati ieri a queste dimissioni, quindi a sorpresa. Generali sarà presto un nuovo presidente nelle prossime ore, non sono nei prossimi giorni, ma insomma il candidato che raccoglie più indicazioni è Galateri, quindi un candidato di profilo rassicurante e non interventista, ma sullo sfondo, con questa discesa agli inferi improvvisa, che viene salutata da commenti come quello che vi ho ripetuto di Luigi Zingales oggi su Sole 24 Ore, insomma, commenti molto polemici, perché addirittura Zingales dice che questo è una specie di tramonto dell'intrigo, è un raggio di speranza, quindi un giudizio molto duro. Ma al di là di questo, sullo sfondo c'è una risistemazione generale, forse, dell'intera geografia e dell'intero significato di Mediobanca, perché è ovvio che, come nell'intervista all'Esecco di qualche giorno fa ha detto Diego Della Valle, se il problema diventa non solo una governance meno problematica, per così dire, meno aggravata da polemiche di Generali, ma diventa invece l'uscita in prospettiva dei soci francesi, la terza classe di soci sindacati del patto di sindacato di Mediobanca, questo significa inevitabilmente rimettere mano a tutta la geografia complessa di interessi che stanno in quei patti di sindacato e nelle controllate, cioè non solo in Generali ma in RCS, in Telecom Italia. Se questo è il punto, assisteremo nei prossimi mesi, visto che il patto di sindacato scade alla fine di quest'anno, a un confronto muscolare. Ci eravamo abituati negli ultimi due anni a una specie di paese in cui c'era una sola grande banca residua, Banca Intesa. Se torna anche un Unicredit che dà retta all'impostazione di Fabrizio Palenzone e degli altri soci, avremo due grandi banche che si confrontano intorno a cosa fare della Mediobanca del futuro e delle sue partecipate, e abbiamo poi dei finanzieri, degli imprenditori che hanno forza propria, come Della Valle, come Caltagirone, come Ferrero, alla prova se per caso non diventeranno loro aghi della bilancia di un capitalismo dotato di forze proprie e meno bancodipendente, capaci di dare quell'impulso verso un paese con meno patti di sindacato, più trasparente, più capace di far crescere le singole aziende e non di ancorarle e bloccarle in patti di sindacato che ne hanno spesso non solo creato opacità, ma le hanno soprattutto frenate nella crescita. Forse è questo ciò di cui c'è più bisogno rispetto alle barriere erette contro il nemico francese. Ma di fronte a tutte queste domande sentiamo come la pensano, per chiudere un po' e tacerò, i nostri ospiti. Abbiamo con noi Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità. Buongiorno Gianola. Buongiorno a voi, buona giornata. Nicola Porro, che è vice direttore del Giornale. Buongiorno Nicola Porro. Buongiorno. E Stefano Cingolani, amato collega, anche lui scrive su diversi giornali come me, siamo indipendenti per così dire, senza testate. Buongiorno Cingolani. Buongiorno. Allora, posso cominciare da Nicola Porro per chiedere: condividi quel giudizio così pesante, tagliente di Luigi Zingales oggi sul Sole 24 Ore, o è un eccesso polemico, per capirci in poche parole? Ma Luigi Zingales, io devo dire che condivido il 99% delle cose che scrive nei suoi diversi giornali, però secondo me c'è un eccesso di ottimismo nella sua giudizio di oggi, nel senso è un eccesso di il rigore in quello che dice su Geronzi. Non c'è, io ho letto molto oggi i giornali, ovviamente come tutti voi si pensa che ci sia un tappo che sia saltato, si immagina che Geronzi fosse il terminale di una serie di intrighi. Io ne do una valutazione un po' diversa, si tratta di un grande banchiere che aveva molti anni e che non aveva più la cassa, che è una cosa fondamentale per rendere potente un banchiere, cioè la possibilità di dare crediti, la possibilità di gestire quindi anche economicamente il potere sul posto. E questo grande potere in realtà si basava soltanto su delle relazioni, come è normale in questi casi. Quindi io non sono così convinto che l'uscita di Geronzi molli il tappo del capitalismo italiano, e non sono così convinto che l'aria fresca autonomamente ne entri. Penso molto banalmente che quello che è successo in generale derivi da degli errori commessi da Geronzi nella gestione della sua presidenza, e soprattutto da una cosa che oggi non ho molto letto, ma che è stato secondo me il motivo fondamentale per cui il suo azionista di riferimento, cioè Mediobanca, ha mollato le generali, e cioè che Geronzi ha tentato nell'ultimo anno di creare un azionista alternativo a quello di Mediobanca in generale, che è un'operazione fatta da un presidente che ovviamente non è accettabile da un azionista di riferimento. Quindi io ci vedo molta più, Oscar, semplicità se vuoi in quello che è successo, molta più mondanità, e soprattutto non penso che basti l'uscita di Geronzi per dire che l'aria fresca del capitalismo italiano è entrata. Detto questo, ovviamente i ricambi generazionali servono, e poi comunque vorrei semplicemente sottolineare che dai tempi recenti, Fazio e poi dopo lo stesso in una certa misura Bernheim, certamente Profumo e certamente insomma il capitalismo italiano negli ultimi 15 anni, 10 anni ha visto colpi di scena anche molto traumatici del potere, mentre non mi sembra che il capitalismo italiano nel suo complesso sia là cambiato. Pensa soltanto Maranghi, l'amministratore delegato delle Mediobanca, viene fatto fuori in maniera clamorosa proprio da Geronzi. E insomma, non so se poi è entrata molta aria fresca nel sistema capitalistico italiano dopo tutto questo cambiamento. Tu hai citato prima il ruolo di Palenzona, il nuovo corso di Unicredito. Fino a un certo punto noi ci hanno raccontato che il nuovo corso delle banche italiane era quello di Profumo e della Unicredito, del nuovo Unicredito internazionale. Poi dopo è uscito Profumo e adesso c'è un nuovo corso. Non so se è così. E concludo questo mio lungo intervento dicendo che però non bisogna neanche pensare che il capitalismo italiano sia un capitalismo c'ha i suoi difetti, è un capitalismo nano, ci sono pochi capitali, come dimostra il caso Parmalat, e troppe volontà protezioniste, sempre come dimostra il caso Parmalat, però è un capitalismo che ha in Europa molti simili, soprattutto nel fianco sinistro. Ognuno ha i suoi difetti, non vorrei apparire brano, però è successo quello che succede nelle aziende, voglio dire, se è andato via un uomo potente, un uomo che aveva grandi relazioni, che aveva un pochino meno soldi rispetto al passato, e siamo qui tutti a rincorrere, ovviamente normale, cercare di capire come verrà riempito questo buco. Non dico che questo non avverrà, non penso che la politica sia stata influente, però dico soltanto cerchiamo di vedere anche i motivi per i quali molto semplicemente questo uomo è stato estromesso dopo 350 giorni dalla sua banca, dalla sua assicurazione. Rinaldo Gianola, molti naturalmente non possono fare a meno di inquadrare questa discesa agli inferi anche in un contesto politico. La stampa, uso la stampa di Torino, mette due interviste oggi nei commenti, una a Bruno Tabacci, il cui titolo è "Così si è indebolito il sistema Berlusconi", e poi a fianco c'è Roberto Mazzotti, l'ex presidente del Popolare di Milano, estromesso al posto Ponsellini, più vicino al governo Tremonti lo ha gli è succeduto ed è oggi il presidente della Popolare di Milano, dice addio alla logica di Salotti Buoni. Quanto conta, Rinaldo Gianola, la politica in questa vicenda? Quanto si può considerare che abbia pesato nell'ascesa e adesso nella caduta di Geronzi, oppure la politica in realtà conta molto poco, si illude rispetto a ciò che determinano poi nei Salotti Buoni i soci sindacati, in Mediobanca e così via? Ma la politica ha certamente avuto un ruolo nell'ascesa e nella benedizione di Geronzi, non solo alle generali, ma dico anche prima in Mediobanca e soprattutto in certe operazioni di fusione bancaria come l'Unicredit Capitalia, cioè quelle sono state operazioni diciamo non solo di mercato, ma largamente benedette, influenzate e sponsorizzate dalla politica. La caduta di Geronzi... Ma dovessi dire un nome, chi diresti? Berlusconi, Gianni Letta? Io direi Berlusconi. Berlusconi, Letta, il Cotè Romano legato a Geronzi storicamente, che però oggi vedo che molti si considerano, diciamo, il mondo politico romano come il vero politico, ma anche il Vaticano, i legami con Oltre Tevere e così via, come il vero Cotè su cui, diciamo, Geronzi ha sempre lavorato, ed è vero. Insomma, Geronzi è stato un uomo assolutamente bipartisan, ha dato, diciamo, finanziamenti a tutti. Il suo ruolo di banchiere è stato ad amplissimo raggio, e quindi, diciamo, ha svolto un ruolo da questo punto di vista, se vogliamo, assai politico, insomma, ecco, no? Dove magari la scelta dell'erogazione del credito non veniva esercitata utilizzando i normali criteri di gestione operativi della banca, ma certamente certe scelte erano di natura politica. Io direi che oggi Berlusconi, secondo me, non è contento di quanto è successo alle generali, se vogliamo dare una risposta politica. Forse può essere soddisfatto Tremonti? Boh, non lo so, perché ci si potrebbe interrogare sul ruolo di Tremonti in questi mesi, no? Su cosa ha giocato il ministro dell'economia. Perché le indiscrezioni dicono che in realtà fosse abbastanza soddisfatto, attribuendo a Palazzo Chigi oramai la vicinanza a Geronzi, e non troppo lontano dal considerare giusta la posizione di chi dice che in prospettiva i francesi da Mediobanca devono uscire. Però queste sono indiscrezioni. Queste sono, diciamo, sono valutazioni che poi, sai, bisognerà vedere alla luce dei fatti che cosa succede. Certamente Tremonti, voglio dire, è uno di quei personaggi che in questi mesi a volte è stato individuato come possibile, virgolette, traditore di una maggioranza di governo e possibile successore di Berlusconi in un diverso contesto politico. Certamente Geronzi, la sua caduta, non ha fatto bene a Berlusconi. Voi ricordate quando Berlusconi diceva che Geronzi era l'unico banchiere non comunista? Lo sappiamo benissimo, i favori che dalla Banca di Roma in su sono stati elargiti al gruppo di Berlusconi. Sappiamo che le relazioni, l'ingresso di Mediobanca del gruppo Fininvest di Marina Berlusconi è avvenuto con la regia di Geronzi, e quindi, insomma, questo, diciamo, potrebbe segnare una sconfitta anche politica con le dimissioni di Geronzi. Tuttavia, io devo dire la verità, tutta quest'aria fresca, quest'aria nuova solo per le dimissioni di Geronzi io non la vedo. Ma ecco, sei d'accordo con Porro, se posso dire, ma non, realismo. Se questo è un regicidio, se abbiamo ammazzato e tagliato la testa al monarca Luigi, io Robespierre in giro non lo vedo qui. Cioè, sinceramente, Della Valle un po' fa questa parte, no? No, Della Valle, poi magari un giorno facciamo una bella trasmissione su Della Valle, sul suo comportamento, le sue relazioni politiche, e direi anche con i suoi stakeholder, con i sindacati, con il mondo del lavoro, che questo secondo me dà la chiave ed è il DNA che può dimostrare la modernità di un imprenditore. Della Valle ha giocato le sue partite di potere, non è che siamo qui a giocare, cioè io benefattori in giro non ne vedo. Cioè, Della Valle ha un suo disegno, secondo me il suo disegno è sul Corriere della Sera. Lo dice. Di diventare in modo esplicito il referente del Corriere della Sera, del giornale della grande borghesia italiana imprenditoriale. Così come probabilmente in passato ci hanno puntato altri e non ci sono riusciti, oggi però c'è qualcosa di diverso. Diciamo, le dimissioni di Geronzi, la sua caduta, secondo me non è un segnale di pacificazione, ma invece è un segnale che inizia una nuova guerra, e sarà quella per il nuovo assetto di controllo di Mediobanca. Allora, se finalmente siamo un capitalismo di mercato, lì io vorrei vedere un'OPA, qualcuno che ci mette dei soldi e compra le azioni sul mercato. Questo mi piacerebbe vedere. Sarebbe un bel giorno quello in cui si sciolgono i patti di sindacato. Bene, mi dicono che c'è la pubblicità, e poi ripartiamo con Stefano Cingolani, il cui commento oggi sul Foglio ha il titolo La caduta degli dèi. Allora, Stefano Cingolani, il realismo prevale fino a questo momento sia nelle parole e nei giudizi di Nicola Porro, sia da un diverso punto di vista in quello di Rinaldo Gianola. E il realismo che mi sembrava per una volta, anch'io non sono molto d'accordo con Luigi Zingales, che è il nostro comune amico e con cui spesso condivido, perché Luigi Zingales addirittura poi nella conclusione del suo articolo aveva una prosa savianea, e non lo dico per sfotterlo, perché pensate che scrive Luigi Zingales. Cingales. Mi piace pensare che la rivolta contro Geronzi sia nata da quel funzionario di Generali che per prima, una donna, visto che l'unica categoria in cui le donne sono sovrarappresentate in Italia, scrive Cingales, è quella delle persone oneste che rispettano le regole, per prima si è opposta alla richiesta di Geronzi di comprarsi un iPad a spese di Generali. Io non sono molto d'accordo sull'idea che questa storia dell'iPad sia davvero rilevante, non ha nessun significato. Però invece Luigi Cingales scrive: alla fine questa contesa è finita ai massimi livelli, ma laggiù nella gerarchia di Generali qualcuno ha avuto il coraggio di dire no, questo è contro le nostre regole. Un no pericoloso di fronte a un uomo potente, un no che rischiava di essere inutile se, come troppo spesso accade, l'uomo potente aggirava la regola con il consenso di qualche superiore. Ma in quel no coraggioso c'è l'eroismo di un'Italia che resiste. E questa Italia, è a questa Italia che dedichiamo questo giorno di festa, l'Italia che ha il coraggio di dire no. E ragazzi, il fatto che sul Sole 24 Ore si leggano cose simili è comunque un segno e una svolta dei tempi. Ma io penso che noi siamo un po' più realisti e chiedo però se anche Stefano Cingolani è un po' più realista, oppure pensa che davvero sia una svolta, perché il titolo del suo articolo di oggi è La caduta degli dèi. Sì, la caduta degli dèi è anche la caduta di un'illusione, no? L'illusione del primo motore immobile, insomma il primo motore immobile nella tradizione aristotelico-tomista è Dio, diciamo. E l'illusione qual è? È quella di costruire, ricostruire il centro di gravità dell'intero sistema economico, finanziario e politico, perché insomma l'addentellato con la politica in Italia è forte, non solo in Italia, insomma in molti altri paesi. Anzi, se mi consenti una piccola intromissione, io è appena uscito un mio libro che si chiama Bolle, balle, sfere di cristallo, e in cui cerco di rappresentare la crisi, il dopo crisi, come è stata risolta, come un intreccio di interessi tra la grande politica, i grandi affari, big politics e big business, che ha nuociuto, prima diciamo ci ha aiutato, ha favorito l'ingresso nella crisi e poi ha nuociuto alla sua soluzione. Un po' questo intreccio lo vedo anche nella vicenda di Geronzi. Insomma, Cingales mi sembra troppo lirico e molto ingenuo, perché il problema, caduta l'illusione, il problema resta, cioè questo sistema capitalistico italiano, come si sta muovendo, è veramente, non è più un sistema monocentrico ma un sistema policentrico, oppure un sistema che si sta sfaldando? C'è bisogno o non c'è bisogno dei momenti di aggregazione, delle spinte? E questi momenti di aggregazione devono essere nel governo, nello Stato, come mi pare di capire che pensi tutto sommato Tremonti, oppure nel sistema bancario, come pensano, non so, come pensa Palenzona, prima si è parlato di questo nuovo ruolo di Unicredit, o come pensa Bazzoli e come pensava prima, e come pensava e continua a pensare, immagino, Geronzi. Insomma, a tutte queste domande non c'è risposta. Io penso che la risposta sia in alcune cose che vedremo o non vedremo nelle prossime settimane. In primo luogo, quale sarà il ruolo in queste Generali, in questo leone eternamente addormentato, quale sarà il ruolo degli azionisti industriali, Caltagirone, Della Valle, Pelliccioli e altri? Secondo, il patto Mediobanca continuerà ad andare avanti così, con questo curioso equilibrio, paralizzante equilibrio tra questi tre blocchi che tu avevi ben rappresentato, oppure si scioglie questo patto e anche qui entrano finalmente degli azionisti, degli industriali, della gente che ci mette i quattrini e dà a Mediobanca un impulso diverso? Insomma, in questi anni Mediobanca è rimasta, dopo la morte di Cuccia, Mediobanca è stato un campo di battaglia, ma non è stata non ha avuto un ruolo di impulso e di sviluppo. Terzo, il rapporto con i giornali, che adesso passa soprattutto in questo caso attraverso Corriere della Sera. Beh, anche qui il segnale di novità sarebbe quello di sciogliere, di allentare questa presa e di, insomma, lasciare che l'industria editoriale vada avanti per la sua strada come un'industria. Questo quindi è l'altra cartina l'altra prova che ci attendiamo. E infine, come diciamo, lo sciogliersi di questo nodo, di questi conflitti, di questo eterno conflitto di interesse, di questo incrocio tra grandi affari e politica, insomma, deve avere le sue ricadute, dovrà avere, io spero almeno, insomma, ma è quello il punto interrogativo che sollevo, avere le sue ricadute in altri grandi gruppi, ecco, Telecom o Pirelli o Alitalia, insomma, avranno degli azionisti stabili, forti, ci sarà una soluzione per questi gruppi eternamente in bilico che insomma ci possa far pensare che di qui ai prossimi anni la finanza italiana e il capitalismo italiano abbia una prospettiva di crescita, oppure no, oppure saremo insomma di fronte a questo processo di sfaldamento. Quindi secondo me la novità c'è, ma soprattutto le novità ci possono essere se si segue una linea che è un po' quella che ho detto, insomma. Quindi io diciamo non sono così minimalista come Porro, però voglio attendere la prova dei fatti per capire quali conseguenze avrà la caduta degli dèi, come l'abbiamo chiamata, insomma. Allora, molti ascoltatori naturalmente mi rimproverano di aver taciuto i 16, 18, io della verità non so quanti siano, però i giornali oggi parlano di cifre di quest'ordine di grandezza, milioni che sarebbero la buona uscita per un anno di Geronzi in generale, dicendo ma non è questo il primo vero scandalo. Certo, la struttura dei compensi non è esattamente orientata al ribasso nel nostro paese in queste figure. Detto questo, qui l'impatto va al di là dei denari che poi in tasca Geronzi. E la cosa che chiedo a Porro, la politica, la stessa domanda che ho fatto a Gianola, c'entra, non c'entra, si è in realtà perso posizione rispetto alle banche grandi, a Mediobanca, Banca Intesa, soprattutto Banca Intesa in questi anni, e quindi è solo un conteggio giornalistico quello di metterci la domanda ma Berlusconi o Tremonti che ruolo hanno avuto, sono stati sorpresi, sono stati interpellati, lo hanno preso dalle agenzie. Sbagliamo a credere che la politica c'entri ancora, ed è in realtà la grande banca, il patto di sindacato, dove contano più i banchieri, degli imprenditori che hanno pochi soldi, a contare nell'Italia di oggi? Guarda, io ti rispondo innanzitutto con un'autocritica. Siccome i giornalisti dipendono, ovviamente è un paradosso, molto della loro carriera dipende dalla politica e dalle banche, che di fatto controllano in maniera indiretta i giornali, pensano che tutto il mondo si uniformi a se stessi, quindi che la politica e le banche siano il centro del mondo. È chiaro che tu capisci, sei talmente intelligente da capire che il mio è un paradosso, però in questo scherzo sappiamo bene. Ci sta. Quindi tendiamo sempre a pensare che il centro di tutto sia in questi due campi. Quello che succede è molto semplice. Berlusconi è un uomo che è sempre stato al di fuori dell'establishment economico. Mediobanca ai tempi di Cruccia gli chiudeva la porta in faccia, la Comit l'ha aiutato ma poco. L'unico banchiere che ha aperto il portafoglio a questo imprenditore originale, maverick, fuori dagli schemi come è stato Berlusconi nel passato, è stato Geronzi. Perché quindi... fu proprio la volta in cui si parlava della quotazione del gruppo che serviva per salvare il gruppo e Cuccia disse a Berlusconi: se vuole me ne occupo io, ma si fa come dico io. Berlusconi gli rispose: no, veramente l'azienda però è mia, non si fa come dice lei. La risposta di Cuccia fu: bene, io faccio rientrare allora la Commerciale e l'Unicredit, all'epoca Credito Italiano, da tutte le posizioni nei suoi confronti, voglio vedere come fa. E a quel punto, come dice Nicola Porro, Geronzi invece sparigliò e disse: guardi cavaliere, me ne occupo io del credito, se glielo ritirano glielo do io. E fu decisivo in quel passaggio per Berlusconi, Geronzi. Fu decisivo e fu il primo che ruppe veramente i rapporti, diciamo, di monopolista del credito sano, perché questo era certamente Mediobanca, perché il credito poi c'era anche un credito politico, e il credito sano, e lo ruppe Berlusconi. Quindi quello che succede è che oggi noi ragioniamo con quell'abito mentale, ricordandoci il Berlusconi che in realtà ebbe soltanto una banca, che tra l'altro fece un grande affare con lui, perché poi Mediaset non si è rivelata un castello di carte, ma una delle principali aziende italiane. Quindi insomma Geronzi ebbe intuito e fu generoso con Berlusconi. Tutti attribuiscono a questo il rapporto di Berlusconi con Geronzi, che è il rapporto della raccontazione di lungo in chi è. Aia! Aia, la qualità del collegamento telefonico cade perché è in treno, quindi direi che andiamo con le informazioni sulla circolazione stradale e poi proviamo a ripartire con Nicola se il collegamento è migliorato. Eccoci tornati in studio, vediamo se il collegamento con Nicola Porro si è ripristinato. Dicevi, Nicola? Dicevo semplicemente che proprio partendo dal paradosso sui giornali noi tendiamo a esagerare largamente il ruolo della politica, non che non ci sia stato, non che Tremonti non abbia espresso le sue preferenze, però insomma il punto fondamentale è che quello che è successo all'interno del salotto buono del potere italiano. La politica può avere oggi soltanto un potere di interdizione, semmai, ma gli strumenti del passato, all'Andreotti, al CICR per intenderci, grazie al cielo non esistono più. Le idee che Tremonti lancia in giro sulla nuova IRI, che dice che soltanto un pirla può pensare che esista, e sul intervento comunque dello Stato italiano a protezione delle imprese italiane, sono comunque interventi che non hanno nulla a che vedere con quello che nel passato si poteva fare lo Stato. C'è il mercato, grazie a Dio, c'è l'Europa, grazie a Dio, e quindi il potere, diciamo, della politica è semplicemente di moral suasion. È largamente, secondo me, sopravvalutato il ruolo che ha avuto la politica in questa vicenda. Questo non toglie ovviamente che essa abbia avuto un ruolo, che Tremonti nel passato sia stato l'unico banchiere vicino al Presidente del Consiglio attuale. Però, insomma, io cercherei di andare più a guardare quello che succede nel capitalismo italiano, che è l'influenza che ha avuto la politica su queste vicende. Insomma, i vecchi presidenti regionali avevano ben altro ruolo con la politica di quelli attuali. Insomma, i nomi li hai fatti tu. Bene, Gianola, la domanda è, visto che in realtà, sia pur da punti di vista diversi tra quelli che siamo qui oggi ai microfoni, vorremmo tutti un mondo in cui si sciogliessero i patteri sindacati di Mediobanca. La mia opinione è che servivano a mercati chiusi e contro la politica con le mani adunche. Io sono perché la politica non debba decidere lei quali sono i settori strategici e che cosa far fare col denaro pubblico. Detto questo, oggi sono per sciogliere il più possibile. Però la domanda che faccio a Gianola è: perché alla fine dei fatti, dopo 20 anni oramai da la privatizzazione delle grandi boom pubbliche, delle banche pubbliche, secondo lui, perché di banchieri come Profumo, che manifestavano poi la voglia di superare quel vecchio mondo chiuso su se stesso, in cui ci si dà una mano, vedere il gruppo Ligresti con quello che sta avvenendo per l'ennesima volta, con Unicredit che dà una mano a Ligresti perché Ligresti è in Mediobanca, così ci si rafforza entrambi all'interno di Mediobanca e delle controllate. Perché in realtà di banchieri, di finanzieri come Profumo, alla fine, alla prova dei fatti, in questi 20 anni nessuno è riuscito davvero poi ad avviare un'attività di scrostamento, un po' di anticalcareo in tutto questo vecchio mondo, secondo Gianola? Perché? Ma insomma, possiamo parlare di un episodio. La caduta di Profumo inizia quando fa l'operazione Capitalia, che è un'operazione non di mercato, è un'operazione politica, cioè lì bisognava sistemare Capitalia in modo definitivo. Hai già citato che i prezzi a cui è stata fatta quella fusione, le valutazioni, diciamo, sono valutazioni pre-crisi, e l'Unicredit ha poi pagato sul suo conto economico e nel suo stato patrimoniale quell'operazione. La prima operazione politica fatta da Profumo ha avviato il declino di Profumo, che successivamente ha dovuto subire, perché questa è la legge del contrappasso politica che c'è in Italia, anche nel mondo della finanza, ha dovuto subire l'affronto di Geronzi, che garantiva l'aumento di capitale di Unicredit e soprattutto l'ingresso degli azionisti libici in Unicredit. Ora, questo è, diciamo, un episodio, ma sta a significare che i cambiamenti, quelli che spesso noi definiamo cambi di regime, ribaltoni, terremoto, in realtà poi alla fine si consolidano con piccole mediazioni, illusioni, nuovi interessi, nuove trame, magari qualcuno ci guadagna qualche cosa in una fase, magari successivamente la perde. Cioè non c'è stato negli ultimi 20 anni, nonostante la campagna e l'ubriacatura, dico io, la sbornia delle privatizzazioni, la creazione di nuovi soggetti economici autonomi, indipendenti, che con i propri capitali potessero giocare un ruolo che prima giocava, diciamo, lo Stato, insomma, no? Oppure i manager pubblici, quelli più autorevoli, quelli più bravi, quelli più forti. Non è successo nulla di tutto questo, eppure abbiamo privatizzato le banche, le grandi banche pubbliche, abbiamo privatizzato la Telecom. Cioè la Telecom, prendiamo la Telecom, in 12 anni ha cambiato 4 gestioni e 4 assetti azionari. Era la più bella società italiana quando venne privatizzata alla fine degli anni 90. Ora qualche considerazione bisogna farla, sia sul modo in cui... Ma però sembra quasi che lo dici come se fossi nostalgico di quella pubblica. Oddio, i nostalgici sono tanti, guarda, Massimo Mucchetti lo scrive sempre sul Corriere. Io devo dire che la Telecom pubblica a me non farebbe schifo oggi, anche perché, vuol dire, se noi giriamo in Europa, le grandi utilities, i grandi settori strategici su cui adesso vuole intervenire persino Tremonti per difenderli, beh, se tu vai in Francia o in Germania non francesi e tedeschi, non c'è dubbio, non è che li lasciano andare ai primi che trovano. E per dirti, persino in Inghilterra, nel paese della Thatcher, ci sono stati, diciamo, opinionisti, commentatori, certo in minoranza per carità, che si sono interrogati sul fatto se, ma è con nostalgia, ma la British Steel potevamo forse tenercela? La British Airways forse poteva andare meglio che non in queste condizioni? Insomma, per farla breve, 20 anni di privatizzazioni in Italia non sono serviti a creare un nuovo tessuto imprenditoriale, economico, importante. E oggi, secondo me, il caso delle Generali è emblematico, perché non perché c'è stata, diciamo, la battaglia di Della Valle o di altri imprenditori, ma perché c'è stato quello che potremmo definire giornalisticamente un colpo di Stato, cioè gli azionisti che avevano portato lo stesso Geronzi alla presidenza delle Generali gli hanno votato contro 12 mesi dopo. Sì, sì. Cioè, di questo si tratta, e diciamo non è una gran cosa, insomma è una piccola cosa nella sostanza, no? È una piccola cosa che da cui non traspare, secondo me, un nuovo regime, una ventata di aria fresca, o come dice Zingales, diciamo, finalmente l'abbiamo finita con gli intrighi. No, io temo, ahimè, che ci saranno altri intrighi e altre situazioni poco edificanti, a meno che finalmente non compaia qualcuno che giochi davvero apertamente sul mercato, perché le privatizzazioni non hanno favorito nemmeno il mercato. Basta vedere in quali condizioni è ridotta la nostra borsa, quali sono i patti di sindacato che governano le grandi aziende private in Italia e qual è ancora il conflitto di interessi, l'unico elemento centrale totalizzante della nostra finanza. E che accomuna molti, perché qui il conflitto di interessi noi lo evochiamo, e giustamente in politica lo identifichiamo in Berlusconi, ma se andiamo a vedere tra i soci sindacati, appunto. Ma scusa, Della Valle che va a chiedere alle Generali di uscire dal Corriere della Sera dove lui è azionista, ma ti sembra possibile? Però è diventata una bandiera di cambiamento e di trasparenza nella vicenda come l'abbiamo rappresentata, e lo dico senza critica, però ti do ragione, la mia idea è ci vuole dell'anticalcareo. Cingolani, io le do appuntamento in realtà per parlare del suo libro nei prossimi giorni, perché oggi l'ho fatta parlare poco, un pochino apposta per questo, perché è un libro che ripercorre le vicende del mercato, non solo italiano ma soprattutto italiano, sul contesto internazionale in questi 3 anni di crisi, e che si diverte amaramente, secondo me, a sottolineare parecchie delle contraddizioni e dei conflitti di cui stiamo parlando. Molti ascoltatori, io mi scuso con loro, dicono che la nostra trasmissione di oggi è stata per eletti, è stata un po' incomprensibile. Io lo so che è così, però la faccenda è, ragazzi, guardate, lo so che potete non darci retta, ma temo che molte delle vostre scelte come clienti di banche, se avete una polizza, se comprate il Corriere della Sera piuttosto che altri giornali e così via, a deciderli siano molto più questi iperconflittati di interessi di cui abbiamo parlato nei patti di sindacato di queste aziende del mondo medio banca, di quanto non siano coloro di cui vi occupate quotidianamente, e cioè Berlusconi o gli oppositori di Berlusconi. Questo è il più di ciò che determina il denaro in Italia, posto asfittico con dei recinti troppo alti, non troppo bassi. Questa è la mia opinione. Ringrazio Rinaldo Giannone, Nicola Porro, e do appuntamento a Stefano Cingolani a presto nei prossimi giorni per parlare del suo libro, e ringrazio tutti coloro ai quali, grazie ai quali siamo andati in onda oggi, e devo fare anche gli auguri di buon compleanno a Marco Tulli, il mio braccio destro, non li meriterebbe per niente, però siccome se non glieli do poi lavora ancora meno, e quindi sapete, è proprio dura. Appuntamento a domani, linea Giornale Radio.